La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato alla storia orale, fonte preziosa per la ricerca storiografica, al pari dei documenti e delle fonti tradizionali. Ospite ai nostri microfoni Alessandro Portelli, docente di letteratura anglo-americana all'Università La Sapienza di Roma. Radio 24, in collaborazione con History Channel, in seguito vi farà ascoltare un radiodocumentario dedicato alle origini dell'essere umano, agli strumenti e alle idee che hanno aperto la strada al trionfo del genere umano sulla Terra. Ma la parola adesso va a Dino Pesole. Mi mandano a Sette Cammini a dare da mangiare le galline. Avevamo delle galline, c'è una nonna mia qui a Cavallari, Sette Cammini, e io mi sono salvato. Mio padre, ai vigili del fuoco, gli aveva detto a mia madre: tu mettiti sotto i muri maestri all'angolo in cantina. Se non che mia madre ha fatto così con le mie sorelle, sono andati giù. Però è successa che è venuta una bomba a questo palazzo e c'era una gommare di mia madre, che allora eravamo tutti compà, gommà, come un po' questo si usa pure per i paesi. E ha strillato: Dina, Dina, mia madre si chiamava Dina, so ferita. Mia madre è salita su per dargli una mano, benché bombardavano, se migliaia di bombe che cadevano. Sono venuti giù da qui a 20 metri più là, sono venuti giù 4 piani e mia madre è stata sotto. Una sorella mia gli batteva ancora il polso quando mio padre con i vigili del fuoco è arrivato qui e ha scavato le macerie. Sta sorella mia gli batteva il polso, ma non si è salvata. Poi mio padre non la trovava più, qui erano cadastri di morti. Mio padre, pensate che vita che ha dovuto fare quest'uomo, ha dovuto aprire tutte le casse dei bambini morti di San Lorenzo per trovare la figlia. Quella che avete appena ascoltato è la testimonianza di Aldo Bravi, romano, proprietario del ristorante Pomidoro in Piazza dei Saniti a San Lorenzo, nato e cresciuto nel quartiere, che sopravvisse al bombardamento di Roma del 19 luglio del 1943 da parte degli anglo-americani. Ne traiamo spunto oggi per parlarvi dell'importanza della storia orale, delle testimonianze dirette, che sono una fonte preziosissima per la ricerca storiografica, al pari dei documenti e delle fonti tradizionali. Ripercogliamo insieme gli eventi di quella drammatica giornata. È il 19 luglio 1943, quando gli aerei statunitensi bombardano per la prima volta la capitale. Le 4.000 bombe sganciate provocano circa 3.000 morti e oltre 11.000 feriti, la maggior parte dei quali nella zona di San Lorenzo. Il bombardamento faceva parte di una ben precisa strategia di attacco da parte degli alleati, in quanto la distruzione della ferrovia avrebbe costituito il taglio di un importante nodo di natura militare. Volantini di avvertimento, qualche giorno prima, avevano preannunciato quanto poi in realtà si verificò. E cittadini increduli avevano letto l'avvertimento: state lontano dagli obiettivi militari. Eppure la morte degli innocenti fu il più caro prezzo che pagò la città e che lasciò un profondo segno nel cuore dei suoi abitanti. Nessuno aveva realmente preso sul serio l'ammonimento di quell'opera di volantinaggio, in quanto Roma era stata dichiarata città aperta, sede del Vaticano, città della cristianità. E al suono delle sirene di allarme, quasi nessuno era corso ai rifugi. Ora un altro esempio di testimonianza orale è Giuseppe Bolgia, figlio di Michele, ucciso alle Fosse Ardeatine. Mamma ha perso tempo, pensava che Roma era città aperta, nessuno veniva a toccare, non doveva essere toccata né dagli inglesi, né da America, né dai tedeschi, nessuno tocca. Questo era il motto che avevano fatto, e mentre invece ne hanno dato retta. Ricordo quel giorno del bombardamento, l'ho visto a bassa quota, io erano 200-300 fortezze, a me non mi presero a bassa quota. Mamma, credendo che non fosse bombardato, stava cucinando, era verso mezzogiorno, qui non aveva documenti, ha aiutato una donna che aveva partorito al piano, nessuno gli dava una mano, andavano nei rifugi. I rifugi da allora erano dei sacchetti di sabbia, quelli erano i rifugi del regime fascista, e quello è la difesa di Roma. Suonava l'allarme, andavi dentro al portone, quello era la difesa di Roma. Gli studiosi storici orali, per le loro ricerche di storia contemporanea, oltre alle fonti bibliografiche e documentarie, utilizzano narrazioni, racconti, testimonianze dirette, fonti storiche che tuttavia faticano ancora a essere accettate pienamente dalla storiografia ufficiale accanto alle altre fonti tradizionali. Nel 2006 è nata per questo l'Associazione Italiana di Storia Orale, il cui principale animatore e sostenitore è il professor Sandro Portelli. Buonasera, professore. Buonasera, io voglio subito dire una cosa, appunto le fonti orali delle volte sono poco attendibili, non sono il principale animatore perché è stata mia l'iniziativa di fondarla e tutto, ma per fortuna adesso le persone che la portano avanti sono altre, c'è la professoressa Gabriella Gribaudi, c'è Elisabetta Novello, Alessandro Casellato, cioè tutto un altro gruppo di persone che si sono prese questo carico e stanno facendo un lavoro straordinario, veramente straordinario, Piero Cavallari e altri ancora. Benissimo, allora noi abbiamo appena ascoltato due preziosissime testimonianze, quella di Aldo Bravi, proprietario del ristorante Pomidoro in Piazza dei Saniti a San Lorenzo, che racconta appunto di quella drammatica giornata, lui perse sotto i bombardamenti la madre e due sorelle, poi la testimonianza di Giuseppe Bolgia, figlio di Michele, ucciso alle Fosse Ardeatine. Allora, ci spieghi, professor Portelli, l'importanza delle fonti orali? Io credo che al di là dell'immagine originaria, cioè attraverso le fonti orali, noi ci avviciniamo di più all'esperienza. Intervistare qualcuno la cui famiglia è stata distrutta dai bombardamenti significa avere un contatto più vivo con quella drammatica esperienza. Quindi si partiva, diciamo, da questa idea di avvicinarsi all'esperienza. A mano ci siamo resi conto che questa dimensione, che rimane centrale, e tra l'altro quasi sempre le narrazioni sono sostanzialmente attendibili o comunque verificabili, si è innestata un'altra dimensione, che è quella della duplice relazione fra il momento del racconto e il momento dell'evento, cioè una narrazione sui bombardamenti del 19 luglio 43 fatta 70 anni dopo è particolarmente ricca e significativa perché contiene al suo interno tutto il lavoro che la memoria ha compiuto in questi 70 anni e ci dice non solo che è successo, ma che cosa quello che è successo significa oggi per chi lo racconta, cioè istituisce intanto questa relazione fra il presente in cui raccogliamo la narrazione e il passato che della narrazione è oggetto. Che è tutt'altra cosa dalle fonti tradizionali, è evidente. Le fonti tradizionali hanno il vantaggio di essere permanenti e coeve, questa ha il vantaggio di essere mutevole e distanziata. Sì. E naturalmente ci si fanno delle operazioni diverse, entrambe preziose, però con la fonte orale appunto andiamo di più alla ricerca della relazione. L'altro elemento che io trovo importante è che questa narrazione non è fatta in astratto. Intanto, a differenza di gran parte dei materiali che troviamo nelle fonti d'archivio, noi abbiamo molto chiaro chi è che racconta. Non molto spesso noi, che ne so, se uno va al casellario politico centrale, ci sono delle narrazioni che parlano dei sovversivi, ma non sappiamo chi è che le ha scritte. Mm. Qui invece noi sappiamo chi è che racconta, e racconta a noi, cioè non è un racconto che avviene in astratto e immutabile, ma è un risultato che dipende dalla relazione che si istituisce con lo storico che intervista. Questa narrazione non è astratta e impersonale, ma è frutto di un incontro concreto fra differenze. Non può esserci un rischio, cioè che nel utilizzare le fonti orali così come lei le ha descritte ora, in effetti poi ci sia una forte componente anche, come dire, emozionale, di ricordo, che potrebbe in teoria alterare la congruità, la fattività storica, l'accertamento vero dei fatti, oppure questo non è un problema? Ma direi che non solo è un problema, ma è la ricchezza, sì, nella misura in cui naturalmente noi abbiamo nei confronti delle fonti orali lo stesso atteggiamento empatico da una parte, perché sono persone, ma anche critico dall'altra, che dobbiamo avere con tutti i documenti. Non è che noi un documento, perché lo troviamo in archivio, lo prendiamo assolutamente per buono e non stiamo a verificare se è vero. Lo stesso lo facciamo con le fonti orali. Quello che accade è che quindi quando noi abbiamo corpus di interviste, di narrazioni, lavoriamo contemporaneamente su tutte le altre fonti, lavoriamo sulle fonti a stampa e da questo intreccio verifichiamo anche dov'è che ci sono degli scarti, delle distanze, e quando troviamo questi scarti spesso è lì che sta il significato. In fondo io mi occupo di fonti orali perché a un certo punto ho scoperto che gran parte degli abitanti della città di Terni mi raccontavano un episodio cruciale della loro storia mettendolo in una data e in un contesto sbagliati e diversi da quello reale. Forse perché venivo dalla letteratura dove un bel racconto, anche se non è vero, è comunque un luogo di significato. Anziché scartare questo dicendo vedi le fonti orali non sono attendibili, mi sono domandato come mai, perché, e questo mi ha condotto a riflettere proprio sul meccanismo della memoria, sulla costruzione dei simboli, proprio perché sapevo che il racconto era sbagliato. Però chi lavora con le fonti orali deve fare il normale lavoro dello storico, cioè cercare di capire che cosa è successo. Poi deve fare il lavoro dell'antropologo, cercare di capire che costruzioni culturali ci sono, e poi fare il lavoro di mediazione, di capire che relazione c'è fra i costrutti culturali e gli eventi che sono avvenuti. E questo credo che sia lo specifico di gran parte del lavoro di storia con le fonti orali. Molte grazie, professor Portelli. Molte grazie a voi. Buona serata, grazie. La storia e la memoria torna tra poco. La storia e la memoria. Bentornati alla seconda parte della Storia e la memoria. Radio 24, in collaborazione con History Channel, vi presenta un approfondimento dedicato alle origini e al trionfo del genere umano. Siamo nati per sopravvivere in un mondo pieno di pericoli. Le avversità ci hanno resi più forti. In mezzo al caos di un pianeta implacabile, sono nati idee, sogni e nuovi futuri. Questa è la storia di tutti noi. Vi ricordiamo che la versione integrale del documentario andrà in onda mercoledì 21 novembre alle 21 su History Channel. 13 miliardi di anni dopo la nascita dell'universo compare una specie unica, l'essere umano. Nelle praterie dell'Africa orientale inizia la nostra lotta contro le avversità. Una banda di fratelli. Il loro capo è l'antenato genetico di tutta l'umanità. È 5 centimetri più alto di un europeo moderno. È un atleta naturale e un cacciatore nato. Ha una visione binoculare che permette di calcolare le distanze. È destrimano. Corre su due gambe. Ma non ha nessuna delle armi naturali degli altri predatori africani. Non corre come il ghepardo. Non possiede la forza del leone o le ganasce potenti della iena, per cui si ingegna. Richard Mac Machovitz, esperto militare ed ex Navy SEAL. Gli utensili ti rendono migliore, le armi ti rendono più potente. E per usarli devi stare sulle gambe, devi avere le mani libere. Liberare le mani per utilizzare degli strumenti cambia il gioco. Nessun'altra specie del pianeta ha mai utilizzato armi o utensili come abbiamo fatto noi. La capacità dell'uomo di proiettare il suo potere è la chiave per controllare il mondo. A 300 gradi centigradi compare una scintilla. Il fuoco. Il nostro pianeta è l'unico posto conosciuto nell'universo in cui il fuoco ha le condizioni per bruciare. È l'elemento che ci ha reso quelli che siamo. Mehmet Oz, ospedale presbiteriano di New York. Cucinare il cibo ci ha dato un secondo stomaco esterno al corpo. Così i grassi, i carboidrati e proteine vengono demoliti prima di masticare il cibo, facilitando la digestione. Così lo stomaco si è rimpicciolito e il cervello è cresciuto. L'alimentazione migliore fa sviluppare il cervello umano, che in 2 milioni di anni raddoppia di dimensione, con migliaia di miliardi di connessioni. È la struttura più complessa del nostro universo. Ci permette di pensare, di comunicare e di amare. Ci sono forse solo 10.000 esseri umani sul pianeta, meno di quelli che oggi nascono in una singola ora. Sparpagliati in piccoli gruppi isolati, sono sempre sull'orlo dell'estinzione. Ma circa 70.000 anni fa, qualche centinaio di pionieri lascia l'Africa. Henry Louis Gates Jr., Università di Harvard. Siamo tutti imparentati con quei primi pionieri che ebbero il coraggio di avventurarsi fuori dalla loro patria e di guardare oltre. Nel giro di 50.000 anni, l'uomo si insedia in Medio Oriente, in Asia, in Australia e in Europa. E mentre si espande, un leggero scostamento dell'asse terrestre dal Sole raffredda il pianeta. Le temperature si riducono fino a 14 gradi in meno. Un terzo del pianeta si ghiaccia. Ghiacciai alti chilometri avanzano in Asia settentrionale e in Europa, in quella che oggi chiamiamo Francia. Una famiglia sopravvive nel clima più rigido mai conosciuto dall'uomo. Sam Sheridan, scrittore. Il freddo estremo è come un organismo vivente. Ti striscia intorno, trova il tuo punto debole, si insinua dal suolo, spunta da dietro l'angolo e poi ti schiaccia. Sviluppiamo nuove tecnologie per mantenerci in vita. Il fuoco trasforma le caverne in abitazioni. Affilando le ossa animali, creiamo i primi aghi e ci cuciamo abiti su misura. Sulle pareti delle caverne compare un'invenzione esclusiva dell'uomo. Le immagini della sua vita e del suo mondo. Alcune delle prime opere d'arte. James Makes, redattore capo della rivista Popular Mechanics. Vogliono dire, sono esistito, ho un'identità, sono qualcuno. È l'inizio dell'allontanamento dell'uomo dalle sue radici animali fino alla trasformazione in una nuova creatura. Intorno al 10.000 a.C., la popolazione umana raggiunge il milione. 400 generazioni fa, in Medio Oriente, una donna di cui non sapremo mai il nome infonde nuova linfa nel futuro dell'umanità. Gli scienziati la chiamano la nostra madre coltivatrice. Mentre gli uomini cacciano, le donne raccolgono grani selvatici. Ogni caloria spesa per la raccolta ne restituisce 50. Le persone si stabiliscono intorno alle fonti più ricche di cibo, adesso in gruppi di 60 o più individui. Una donna compie un passo significativo. I semi scartati germogliano tra i rifiuti. E lei ha un'idea. Pianta i semi migliori in un pezzo di terra fertile. Judith Lindberg, scrittrice. Piantare i semi è il primo passo verso la civilizzazione. L'uomo può usare il paesaggio a suo favore per garantire la propria sopravvivenza e quella dei propri figli. Libera i semi dalle erbacce e li annaffia. È il primo agricoltore del mondo. Ora, mezzo ettaro di terra può sfamare 100 volte di più rispetto alla caccia e alla raccolta. Una nuova pianta conquista il mondo. Il grano. Un solo staio da 27 kg produce 70 forme di pane. Nel 3000 a.C., l'agricoltura raggiunge l'Inghilterra meridionale, creando un modello per il futuro. Il villaggio. Le prime comunità stabili di persone. I primi animali da fattoria. Maiali, pecore, capre, buoi. È un punto di svolta. Addomesticare e allevare altri animali è la chiave della crescita della popolazione. Ma l'allevamento genera anche una nuova battaglia contro il peggior nemico dell'uomo, la malattia. Mehmet Oz, ospedale presbiteriano di New York. La maggior parte delle malattie comuni che più temiamo, HIV, sifilide, tubercolosi, vaiolo, peste, deriva dal fatto di vivere a contatto con gli animali. Con il duro lavoro e la dieta ristretta, l'essere umano diventa meno sano e più basso. L'uomo medio è alto solo 1,60 m e la donna 1,52 m. Il possesso della terra fa nascere un nuovo nemico, l'uomo stesso. È l'inizio della guerra. Uno scheletro su 10 dei primi agricoltori mostra segni di violenza. Un contadino può morire anche 5 anni prima dei suoi antenati cacciatori e raccoglitori. Con la vita stanziale, l'umanità fa un altro passo in avanti. Nuovi modi di seppellire e l'inizio di religioni organizzate. In una pianura dell'Inghilterra meridionale sorge un monumento ai defunti, Stonehenge. Credere in un'altra vita ispira alcuni dei più grandi progetti ingegneristici dell'uomo. Lungo le sponde del fiume Nilo, l'uomo dà vita a una delle prime grandi civiltà. La sua più grande impresa è l'enorme tomba a piramide del faraone Cheope, il re dio d'Egitto. Avete ascoltato il documentario realizzato in collaborazione con History Channel dal titolo Mankind, la storia di tutti noi, regia di Nick Brown e Dan Clifton, titolare dei diritti EITN, casa di produzione Nutopia. Vi ricordiamo inoltre che la versione integrale del documentario andrà in onda mercoledì 21 novembre alle 21 su History Channel. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Anita Panizza. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.